Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui, siamo pronti. Siamo pronti, a che cosa? Alle notizie, a commentarle, a sentire le vostre opinioni, come sempre. 8, sì, 19 minuti, 28 secondi, 22 secondi. 22 allora, secondi, siamo in diretta. Però, sempre in diretta. Oggi Sant'Adolfo di Osnabrück, poi un re d'Ungheria, San Ladislao, e un santo che mi piace tanto perché ogni tanto un contadino, questo San Pietro di Asti, di cui si sa poco nulla, solo un contadino perché tradizionalmente era raffigurato con un badile in mano, e quindi ogni tanto meglio che ci sia una persona qualunque, un poveretto diventato santo tra tanti conti, figli di re eccetera, va bene. E che cosa dire? Che questo giorno, nel 1990, Germania Est e Germania Ovest unificavano il loro mercato. Ricordiamoci che l'Europa è stato anche questo, non solo separazioni a Beh, certo, e toni aspri, anzi dopo la caduta ceffoni rimediati dalla Merkel, come ieri dal premier italiano. Ci sono stati anche tempi in cui l'Europa faceva cose buone, per così dire. Nel 97 il primo libro di Harry Potter veniva pubblicato, e direi che queste più o meno sono le caratteristiche della giornata, se andiamo a ritroso invece. Ma tanto di Europa adesso parliamo, però noi approfondiremo il tema della scuola, cari amici, anche se le scuole sono chiuse. Ci volete chiamare all'800240024 perché, caro Oscar, in tutta Italia sono sempre più i professori, i docenti che rifiutano quella che per molti è una mancia, no? I premi di merito che i consigli all'interno delle scuole hanno distribuito ai professori. Dicendo tu sei più bravo, tu sei andato meglio, e quindi... Perché il governo, nell'introdurre il salario di merito nelle scuole prima che nel resto della PA, quello ci saranno dei criteri, vedremo quali, nei decreti Madia di riforma della pubblica amministrazione, ha detto intanto applichiamolo nella scuola, ma il governo, non troppo coraggiosamente, secondo me ha detto però noi non vi diciamo come, in ogni scuola decidete come darli. Esatto. E su questo c'è una procedura di consultazione, decidete proprio voi i criteri, poi il dirigente ha l'ultima parola, quindi sono esposti anche di più i dirigenti. Naturalmente di fronte a questo criterio non troppo chiaro in Italia è scoppiato il funivo. No, è scoppiato intanto il fatto che ogni scuola ha scelto a modo suo, modo di ovviamente idea, sì. Non essendoci un criterio uniforme, ognuno ha fatto come credeva, come voleva, e soprattutto molti insegnanti si sono ribellati, ma molti a dire i criteri sono non sono chiari, no, ma molti invece utilizzano chiari altri strumenti, cioè a dire si alimenta la competizione tra i docenti, certo, si alimenta l'analisi di merito come sempre, lo so. Però molti, la componente, scuola, lo dico subito, collettiva, ideologica, collettiva, rossa, verde, ecco, gialla, blu, no, rossa, verde, rossa, qualunque rossa sia l'ideologia, voglio dire, sì, che dice no al merito, noi dobbiamo essere tutti uguali, come tutti uguali, gli studenti bisognerà che gli insegnate, no? La selezione in base sì, al non merito. È, non è che proprio dico voi siamo anche tutti uguali, dicono è un lavoro di squadra, non e così si alimenta la competizione chi tra chi è più bravo. Ci devono essere metriche da fissare, chiare, ex ante, su cui giudicare ex post. Il dire no è la classica cosa italiana per cui la pubblica amministrazione non deve avere il merito. Ma poi una squadra non può funzionare con uno che fa gol, giusto per usare una ma metafora calcistica, i gol devono essere uno un po' più bravo, uno misurabili. Allora. Perché uno non può pensare, esistono dei criteri stabiliti in molti paesi diversi, di tipo diverso, dopodiché alcuni mi dicono, ma se adottassimo il criterio di misurare per esempio il miglioramento dei risultati delle classi negli anni, figurati, sarebbe un incentivo ai docenti a falsificare i voti e darglieli più alti. Dico, ma allora in questo paese buttiamoci sempre nel fiume. Non comunque lo so. Ne parleremo tra poco, la valutazione dei docenti e soprattutto dall'anno prossimo, caro Oscar, ci sarà la valutazione dei dirigenti, cioè dei presidi, scatterà. Pensa che ho letto che anche bidelle, adesso si chiamano, non si chiamano più bidelle, personale ATA, Cipiano, vabbè, bidelli. Ma dai, io li chiamo presidi, bidelli. No, sei un passatista. Vabbè, insomma, sei bidelli, legato al libro cuore, ad De Amicis. I bidelli potranno dare anche loro la valutazione ai presidi, oltre che gli insegnanti. Quindi i presidi valutano gli insegnanti, gli insegnanti valuteranno i presidi. Beh, interessante, sì. Interessante. Però non piace, non piace perché il giudizio viene considerato come questo criterio aziendalistico, questo criterio meritocratico, è tutta colpa del neoliberismo alla fine, capisci? Cioè, niente, la quadrata legione. Comunque chiamateci all'800240024. Ora Oscar ci devi dire, oltre a chi vincerà Italia-Germania a calcio, chi vincerà Italia-Germania per le banche. Dai, su, forza. No, quello che ti voglio dire nel frattempo... Comincia dal calcio che è più facile azzeccare. E che da oggi, tutti i giorni, all'inizio e fine della trasmissione facevo l'aggiornamento del debito pubblico, ho pensato. Allora, volevo informarvi, cari ascoltatori, che siamo in questo momento, sul contatore che va avanti, a 2.250 miliardi, 292.788.000 euro. E a fine trasmissione ve lo dirò, perché in questi giorni... Però dici la differenza anche a fine trasmissione, sono due cifre talmente lunghe. Esatto, però quello che voglio dirvi è che in questi giorni, perché il calendario a cui, l'orologio a cui faccio riferimento è aggiornato con stime tecniche anche di Banca Italia, il debito pubblico sta aumentando a oggi sta aumentando di 91.764 euro al minuto, cioè di 5 milioni e mezzo l'ora. Ecco, questa è l'idea, questa è la condizione dell'Italia oggi, che ci dicano è questa. E di fronte a questo abbiamo rimediato ieri un bello schiaffetto sulle banche, perché in effetti presentarci al Consiglio Europeo su Brexit, come fare per affrontare i britannici che hanno tenuto troppe deroghe, ne volevano altre, se ne vanno eccetera, e noi mettiamo sul tavolo la cosa, beh, dateci una deroga a noi perché vogliamo intervenire con uno strumento comunque pubblico per le banche, ha ottenuto la risposta che era ovvio ottenere, cioè no. Poi i giornali italiani leggono, come hai visto, questa cosa in maniera diversa. Alcuni dicono che comunque noi andiamo avanti su questa strada, altri come il Sole 24 Ore non chiediamo deroghe, altri come il Sole 24 Ore dicono che il problema sono le banche tedesche, non quelle italiane. Sì, lo dice il Fondo Monetario, insomma. Sì, non con quell'enfasi, però cioè, c'è ovviamente una partita che ogni giornale gioca a sostegno di questa cosa, che è, insomma, è la partita difesa... Italia-Germania. No, perché la difesa degli asset di controllo bancari, cioè di chi oggi controlla le banche, e la difesa di chi le ha amministrate, la difesa dei regolatori che hanno chiuso gli occhi. Per me invece la partita Italia-Germania è una partita in cui c'è tutti gli italiani che non hanno colpe di questo, e vedremo come finisce. Io spero che ci risparmiamo il nazionalismo. Certo, sì. Sulla carta è dura, dai, ammettilo anche tu, che di calcio ne sai più di me. Sulla carta sembra dura. Nazionalismo, sì. Ma sembra dura. Sì, sembra dura, ma poi quella è un'altra partita. Faremo il nostro pronostico domani, che è venerdì. Io lo so che tu pensi a Montella, però San Conte. Hai letto Confalonieri che prega Berlusconi tornare alla politica? Sai che mi ha sorpreso? Confalonieri ha detto: prego Berlusconi di tornare alla politica e di in pratica rifare il patto del Nazareno. Andiamo molto molto alla sintesi. Ma io ero rimasto sintesi. Che Confalonieri diceva: dai, fai un passetto alla politica, ci teniamo troppo alla tua salute. Qualcosa deve essere successo. Forse il fatto che sono riusciti a limitare, a levar via le ragazzacce intorno a Berlusconi. Il cerchio magico, esatto. È il primo segno di riscossa dei figli e degli amici di Berlusconi. La Bergamini, la Rossi, queste che ne filtravano troppo, no? La volontà, se ho capito bene, questa era l'accusa. È chiaro, in qualche modo. Li hanno sostituiti con personaggi del tutto autonomi, indipendenti, amministratori dell'azienda di famiglia. Esatto, e vabbè, insomma, il ritorno al controllo il partito centrale patrimoniale. Infatti viene annunciato un congresso di partito che sulla base di nuovi dirigenti dipendenti dell'azienda di famiglia sarà l'impronta del massimo della libertà di critica, immagino. Comunque, cari ascoltatori, vogliamo sentire per esempio cosa ha detto, per tornare al tema europeo. Poi bisognerà dire anche Oscar che tutti contro il bail-in, adesso il bail-in, poi l'hanno votato, giustamente, votato come loro, hanno scritto molti ascoltatori, esatto. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che in sede europea non l'ha votato, la Lega si è astenuta. Pur essendo sempre stata contraria, almeno come manifestazione di voto. Il Movimento 5 Stelle invece ha sempre detto: no, il bail-in non facciamolo, è una cosa sbagliata. Adesso, insomma, siamo a chiedere in qualche modo la sospensione di qualcosa che la maggior parte dei partiti hanno votato. In sede europea. Certo, perché l'arte italiana è quella di fare una cosa e dire ai propri elettori di non averla fatta. E soprattutto poi dire agli elettori che si faranno cose che invece non si faranno. Vabbè, un gran classico queste delle campagne elettorali. Però ti faccio sentire Luigi Di Maio, perché ha parlato della Brexit. È interessante come il Movimento 5 Stelle veleggi un po' come su una tavola da surf. Loro che sono sempre stati contro l'Europa ora dicono: siamo per modificare l'Europa, ma stando al di dentro dell'Europa, magari fuori dall'euro, ma dentro l'Europa. Comunque, Di Maio. Noi non partecipiamo ad intimidazioni al popolo inglese. Noi vogliamo dare i tempi che deciderà come Stato sovrano alla Gran Bretagna per uscire dall'Unione Europea e fare tutti gli accordi per uscirne. Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare a questa operazione. Puniamone uno per educarne 100. Insomma, l'idea che l'Europa dica inglesi, via subito, Di Maio dice no. Però sta con Farage, con il fatto che la Gran Bretagna abbia detto usciamo. Diciamo, è una posizione che si chiama in inglese wait and see. Tenersi aperta un po' di una plurima serie di possibilità, ecco, da quello che capisco io. Non voglio... Sì, intanto, caro Oscar, qua ci chiamano gli ascoltatori, il tema scuola, credo. Lucia ci chiama da Monza. Buongiorno, Lucia. Buongiorno, è un piacere parlare con voi, siete bravissimi. Grazie. Bravissimi, ci mancherebbe con tutto il cuore. Lucia, però per favore lo dica che non è nostra parente. Dai, no, assolutamente, guardi, vi ascolto da una vita. No, grazie. Sì, ma non c'era, scherzavo. È il solito maligno, Oscar. Ci mancherebbe, non sono vostra parente, anzi... Adesso lo sta dicendo con troppa convinzione che sembra quasi una nostra parete. Stiamo scherzando. Lucia, prego. Io volevo semplicemente parlare del merito, dell'assegnazione del merito ai docenti. Allora, io sono una DSGA in pensione dal 1 settembre 2014, dopo 42 anni e 5 mesi, ho collaborato anche col Ministero della Pubblica Istruzione, per cui insomma un po' di esperienza ce l'ho. Allora, il concetto è questo, che già da quando c'era il fondo d'istituto, la natura del fondo d'istituto era il merito. Per cui col dirigente, con l'RSU, avevamo già stabilito dei criteri che non dovevano essere a pioggia, molto contestati, ma mirati a chi in effetti faceva di più. Il problema adesso, mi ritrovo con una mia amica bravissima che l'anno prossimo andrà in pensione, che ha già vinto il premio come uno dei migliori docenti di matematica sul territorio nazionale di qualche anno fa, che si è vista arrivare dal dirigente scolastico per la valutazione di questo nuovo assegnazione di premio una scheda: tu come docente hai fatto questo, tu come docente hai fatto quest'altro. Una cosa devi rispondere, sì. Dal momento che non era obbligatorio, lei che cosa ha fatto? Dopo aver preso in mano questa scheda per una settimana si è concessa il lusso di strapparla e ha detto: ah, mi sono liberata lo stomaco. Dice: ci sono altri mezzi per valutare la classe. Cioè, questo metodo non va bene. Un banale questionario da compilare. Esatto, cosa vuol dire? Mi dica lei chi scrive di no. Vede, io sono molto d'accordo. Questo è un metodo molto grezzo, con questo meccanismo. È il classico meccanismo collusivo, autoassolutorio, per cui ce lo si spartisce tutti uguali. Che però per legge non si può, questo è il problema. La legge stabilisce delle fasce a cui bisogna dare a tavolino, anche lì. Perché devono essere stabilite a tavolini? A chi dare tot in più, a chi tot uguale, a chi tot in meno. Invece la legge funziona così. Vedi gli inconvenienti di non aver voluto fissare i criteri per non esporsi alle critiche? Ripeto, a chi ci ascolta, perché molti altrimenti obietteranno, come si fa a valutare? Il mondo è pieno di metodologie il cui giudizio è affidato a terzi, cioè i due punti toccati della nostra ascoltatrice. Allora, di queste metodologie, della posizione degli insegnanti, avremo ospite un insegnante, della posizione dei dirigenti che invece a loro volta verranno valutati da settembre, sempre per la buona scuola, e per la verità qui si applica una vecchia normativa che c'è da 15 anni e verrà attuata finalmente, o chissà, i dirigenti diranno di no. Avremo un dirigente, insomma, il tema scuola 800 24 00 24, ma se volete chiamarci anche sugli altri temi, l'Europa, la Germania, la Germania cattiva, l'Italia, quello che volete, siamo qua. La Germania buona. La Germania buona, va bene, tra poco. Caro Oscar, eccoci, 8 e 35 minuti, allora, ci chiama Ruggero da Brescia. Buongiorno Ruggero. Buongiorno. Eccoci. Volevo solo intervenire per una specificazione, perché si parla sempre di noi italiani come vittime, quando di fatto mi risulta che siamo sempre noi italiani, i banchieri che abbiamo dato soldi, siamo noi sempre noi italiani, quelli che non li restituiscono, siamo noi i politici, sono italiani, la pubblica amministrazione che non lavora e non tira il cartellino, sono italiani, cioè sembra che ci fosse qualcuno, non mi risulta che chi fa tutte queste cose siano tedeschi. Per cui tutto sommato non capisco perché non solo voi ma anche proprio in tanti blog c'è sempre questa cosa di noi italiani come vittime, e invece siamo, no, a volte guardi, siamo, però, i colpevoli, siamo i colpevoli, però, diciamo, Ruggero, carnefici proprio. Noi proprio no, altri sì, tanti, la maggioranza, ma guardi, di solito vengo impalato perché filo tedesco, quindi si figuri, no no, ma comunque sì, io comunque sono l'osservazione di Ruggero ci sta insomma. Come si vede, le banche tipo quelle Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Arezzo, Banca Marche, Etruria, Carife, sono andate per aria perché c'era un atteggiamento andato avanti per anni con la, gli occhi chiusi del regolatore, che si chiama Banca d'Italia, e l'altro che si chiama Consob, sulle pratiche in violazione del codice penale che erano praticate per anni. Ruggero ci richiama una cosa giusta. Allora, la scuola, prima la nostra insegnante in pensione ha detto che è il metodo sbagliato, e per cui questo metodo se ti chiedono, di valutazione... Tu hai fatto... Sì, sì, sì, ah, con bene, un, bravo. Con un questionario il dirigente ha chiesto all'insegnante, hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai fatto quest'altro, sì, sì, sì, sì, sì, brava, premio. Questo è stato il metodo utilizzato nella scuola di questa sua collega. Comunque, ne parliamo con Mario Rusconi, buongiorno, dirigente, ma in pensione, è andato in pensione Rusconi? Sì, adesso insegno all'università a Roma 3, proprio queste materie. Che bello, che bello. L'organizzazione della scuola, cerco di insegnarla nonostante i sindacati. Insomma, per anni dirigente nel liceo. Ma c'è scritto così la definizione del corso? Esatto, c'è nel corso nonostante i sindacati. Sì, sì, sì, beh, certo, è la, diciamo, la specifica tecnica più importante, insomma. Mario Rusconi. Oh, allora accogliamo subito uno, un amico, giornalista, oltre che insegnante di scuola elementare, autore di libri, scrive anche sul Fatto Quotidiano, Alex Corlazzoli, buongiorno. Per tanti anni alla CGIL, se non sbaglio, una volta hai detto che però per una volta forse non volevi rinnovarla, questo mi hai confidato, o no? Hai detto bene, hai detto bene. Buongiorno Oscar, buongiorno Alessandro, buongiorno all'amico Mario. Io cerco di insegnare nonostante la tessera in tasca ancora della CGIL, che sono ogni giorno tentato di strappare, poi la rimetto in tasca, poi la strappo un pezzettino, poi la rimetto in tasca. Però la rinnovi tutti gli anni, è così, è insomma. Per una sorta di fedeltà a chi ha fondato il sindacato, ma se guardassi adesso ecco, è un attestato così, è una cosa storica, no, però, non che sei d'accordo. Corlazzoli, questa premio al merito, che cos'è? Una mancia che non vi piace, un qualcosa da contestare, un qualcosa giusto magari da affinare, o proprio totalmente da rigettare e spedire al mittente? L'hai detto bene, un qualcosa giusto da migliorare, anzi da rivedere totalmente. Intanto, per far contento Oscar, io voglio chiarire subito che io sono d'accordo sul valutare. È chiaro che se però concepiamo la scuola come un'azienda, dobbiamo chiarirci, la concepiamo come un'azienda o come una comunità? È un po' retorico dire comunità, se non ci piace comunità diciamo qualche altro sostantivo, ma se è un'azienda, se dobbiamo concepirla in quel modo, visto che abbiamo nominato i dirigenti, allora io credo che dobbiamo mettere al posto di un dirigente che deve fare tutto, e Mario, ecco, concorderà con me, deve occuparsi dei ragazzi che hanno bisogno del sostegno, dei ragazzi che hanno bisogno di integrazione, dei genitori che vanno là a protestare, della segreteria, dei rapporti col ministero, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo mettere un responsabile delle risorse umane, io lo dico da tempo, che si occupa invece veramente di valutare, anche di sostenere le risorse umane. È un altro capitolo, noi possiamo valutare gli insegnanti se prima li formiamo. Oggi veniamo da anni, decenni, dove complice il sindacato, gli insegnanti non si sono formati e vogliamo giudicarli. E c'è due fattori in più, lasciamelo dire prima di passare la parola di nuovo a Mario. Questo adesso è stato un pasticcio tipicamente italiana. Uno, perché al comma 128 viene destinata la famosa somma, che poi diciamolo, sono 200 milioni divisi per le scuole italiane, sono circa 15-26 mila euro a scuola, vuol dire tra i 500 e i 1000 euro a insegnanti di quelli che si beccano il bonus. Io ho dichiarato che non voglio la carità renziana verbale nel collegio docenti, ma la discriminazione più grave è che al comma 128 della legge è destinato il bonus a valorizzare il merito solo del personale docente di ruolo. A me quest'anno è arrivata una collega il 7 di gennaio, bravissima, più brava di gente che è lì di ruolo, e questa, perché non è di ruolo, è esclusa da questo. Una gravissima discriminazione, senza parlare di quello che già hai accennato tu e Oscar, di griglie di tutti i tipi che sono volate in Italia, ma l'avete già detto voi, tant'è che lo stesso ministero si è reso conto di questo e ha detto al termine del triennio di questa sterilizzazione le faccio. Però interessante già quello, Oscar, quello che ci dice Alex, dobbiamo considerarlo un'azienda, un'impresa, e quindi ci vuole un direttore del personale, delle valutazioni meritocratiche precise, oppure è una comunità? La pubblica amministrazione non è una comunità. Uno, due, non la è scuola, un'azienda, però è una cosa la un produce po' utile, no, però è la struttura attraverso la quale si realizzano, dietro l'articolo 97 della Costituzione, cioè il presidio è l'autonomia e l'indipendenza, ma si devono realizzare con un'ottima qualifica tecnica, cioè risultati tangibili per gli interessi generali del paese, ma tangibili. Quindi il giudizio, le tecniche di valutazione e anche una parte del salario aggiuntivo che si misura con tecniche quantificate, di cui i governi devono prendersi la responsabilità nell'individuarle, perché è questo è troppo comodo fare cosa la gara. Qui non è stata fate voi, così vi scatenate tra voi, è la solita maniera per dividere la gente. Anche in questo caso io sono d'accordo con Alex su un punto, per dividere la gente di ruolo contro non di ruolo, capisci, come i contribuenti, reddito dipendente, autonomo, è la classica metodologia che non mi piace. Ma il criterio di fondo, iniziare a compiere passi per introdurre metriche che siano chiare ex ante, affidate al giudizio di terzi, non possono essere i docenti a giudicarsi colleghi tra loro, perché sennò è ovvio che il meccanismo collusivo nasce. Non lo dico in termini di disprezzo, è un classico della teoria dei giochi, sappiamo, no? Per chi usa le metodologie di analisi delle scelte collettive individuali, devono essere affidate a terzi e devono essere così certe ex post che non facciamo per favore la marea poi di impugnativi al TAR, perché c'è anche quel rischio. Però sentiamo da Rusconi, perché Corlazzoli ci ha detto quindi che non è assolutamente contro la valutazione, contro il merito, è la metodologia forse che è stata sbagliata, però Rusconi, da dirigente o ex dirigente, ci dica la sua. Ma guardi, purtroppo l'inno, diciamo così, della scuola italiana è stata per molti anni, e per alcuni lo è ancora tuttora, Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare. E questo è un paradosso tutto italiano, perché nel momento in cui l'insegnante ha da sempre come arma in mano, come metodo in mano, il giudizio sugli studenti, naturalmente non tutti avranno il 6, penso, appunto chi ci avrà il 6, chi il 4, chi l'8, eccetera, in questo momento ci sono ancora diversi insegnanti che ritengono che invece vadano date queste somme aggiuntive a pioggia su tutto il corpo docente, che è una stupidata naturalmente assoluta, naturalmente venata di ideologismo. Il fatto che la valutazione di questo, attenzione, non è una valutazione dei docenti, questo è l'elemento mancante della legge, è una valutazione di alcune performance per dare un bonum, esatto, alla latina, per dare un bonum per alcune situazioni, va bene, manca ancora un vero e proprio sistema di valutazione dei docenti, mentre invece ci tengo a dire, dall'altro ieri abbiamo una novità assoluta che i giornali, tranne qualcuno, mi sembra ieri il Messaggero, hanno poco sottolineato, che da quest'anno parte la valutazione dei dirigenti, che è una cosa fondamentale. Nel momento in cui si dà un maggiore competenza, un maggiore potere, come dicono i sindacati, al preside, perché alla fine, una volta che il comitato di valutazione ha stabilito dei criteri, è il preside che stabilisce a chi dare 100 euro, 1000 euro e a quali persone, va bene, quella stessa persona, quello stesso preside che deve ha questo potere, deve essere valutato. E questo le sta bene? Questo le sta ma bene. Certo che me le sta bene, perché appunto noi non possiamo pensare che situazioni così delicate come la essere insegnante, come essere dirigente, sia una specie di sinecura per cui qualsiasi cosa si faccia i ragazzi vadano bene o male, il preside sia intelligente o un furbastro, tanto tutti alla fine del 27 abbiamo lo stipendio. Deve finire questo sistema, noi dobbiamo cominciare a inserire il merito, che è un fatto profondamente democratico, perché altrimenti i ragazzi che vengono da famiglie non benestanti, se non verrà riconosciuto appunto l'importanza del merito, non diventeranno mai medici ed avvocati, e questo ce lo dicono le statistiche. Ma su questo io sono d'accordo, per esempio Alex Corlazzoli, quando leggo alcuni docenti rifiutare il premio dicendo ieri a Repubblica perché questo mina la collegialità dell'insegnamento, perché siamo una squadra e crea una competizione tra chi è meglio e chi è peggio. E che male c'è dire che uno è migliore e l'altro è peggiore tra gli insegnanti? Cioè, che male c'è? Questo io non l'ho mai capito. Alex, tu l'hai capito? No, hai perfettamente ragione. Il problema è appunto che questo è stato concepito ed è stato fatto passare, anch'io appunto sono tra quelli che dice che la carità renziana non la vuole, perché alla fine 500 euro o 600 euro veramente, preferisco guadagnarmeli in un altro modo. Allora, è stato concepito male perché ci sono due punti che non abbiamo ancora sottolineato che vale la pena sottolineare. Allora, intanto chi valuta? Allora, dobbiamo dirlo, chi valuta gli insegnanti? Questo comitato di valutazione, che è assurdo, è assurdo, è formato da chi questo comitato di valutazione? Diciamo, la ragione è Oscar, serve qualcuno che li valuta esterno, ma non può essere uno che non mi ha mai visto. Cioè, certo. Il comitato di valutazione fanno parte due rappresentanti dei genitori, uno per la scuola dell'infanzia, per esempio, e uno per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti, nel caso delle scuole superiori, e un rappresentante degli studenti per le scuole, insomma, un rappresentante dei genitori per il sì. secondo ciclo di istruzione, più un componente esterno che arriva mandato dall'USR, cioè dall'Ufficio Scolastico Regionale. Tu dici uno che non mi conosce come fa, dico, a valutarmi? Questo qua come fa? Ma anche il genitore. Metti il genitore X, nella mia scuola c'ho 5 plessi, viene preso il genitore dal quinto plesso. Deve sapere come io sto in classe, deve sapere come io utilizzo il metodo innovativo, deve sapere come utilizzo gli strumenti digitali. E poi andiamo a vedere solo alcuni, ne prendo due, dei criteri assegnati per la valorizzazione dei docenti, quelli che ha fissato la legge. Uno è, per esempio, la qualità dell'insegnamento. Lo dico voi due. Se io entro in una classe e non ho wifi e ho la link e non riesco a accenderla e ho un'aula computer che non ne funziona uno, mi dite come faccio a fare la qualità dell'insegnamento? Che tipo di qualità dell'insegnamento posso fare? O ancora, il successo formativo. Se io sto in una classe dove ho 13 ragazzi su 20 che arrivano a malapena al 6 per XY problema che conosciamo tutti nella nostra società, io avrò meno possibilità o dovrò per forza dare 8 a questi ragazzi per dimostrare che hanno successo formativo? È veramente... No, ma sono tutte problematiche effettivamente per le quali una valutazione non è per nulla facile. Vogliamo sentire anche degli ascoltatori che ci chiamano. Antonio ci chiama dalla provincia di Latina. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi richiamato. Io proprio su questo aspetto che diceva il vostro ospite volevo proprio fare una riflessione. Alla fine mi verrebbe da dire che il merito potrebbe veramente essere frutto del caso. Il caso che mi ha messo davanti quel professore o quell'insegnante che è più bravo di un altro, il caso che una valutazione all'università nella tesi uno prende 10 punti e in un'altra università ne prende 8, è assolutamente frutto del caso. Io ho fatto un percorso cercando di evitare gli esami più difficili, cercando di evitare il luminare di quella materia, svicolando. Magari invece un mio collega ha trovato un Ma non capisco, per arrivare a dire cosa? Certo, se lei ha dei figli e li manda a scuola, può capitare ai figli un insegnante più bravo o meno bravo. Questo. E quindi mi rassegno. Per me questa cosa del merito è completamente frutto del caso. Si possono introdurre tante valutazioni. Io vengo anche da un insegnamento negli Stati Uniti, dove incredibilmente l'insegnante all'università il suo voto conta del 60%. Però scusi, Antonio, è un caso capitare con un insegnante più o meno bravo, perché uno non è che si sceglie, è un caso. Ma non è un caso valutarlo perché valutarlo nel tempo farà emergere i comportamenti, non so di chi è migliore, ma anche quelli emulativi. Pensi che lui lo vive da genitore, dire mettere mio figlio è un caso andare in una scuola pubblica. Ho segnalato molti posti nel mio blog, Leoni Blog, con la cooperazione di gente che studia i sistemi di valutazione internazionale comparati nelle scuole per dare salario di merito. La parte interessante è che in alcune parti dove il sistema scolastico aveva a che fare con i problemi sociali più gravi, cioè studenti a basso reddito che ripetevano gli anni, che avevano pessimi risultati, abbandonavano la scuola, e questo per esempio c'era una parte di Washington, sì, la capitale degli Stati Uniti, che era così 20 anni fa, era terribile per chi conosce Washington. Allora lì hanno cambiato il sistema di valutazione degli docenti, addirittura sotto una certa soglia di punteggio, al terzo anno il docente veniva cacciato, per essere chiaro, cioè tanto è la qualità dell'insegnamento sugli studenti, cioè l'ascensore sociale perché i figli dei poveri non siano coloro che continuano ad abbandonare gli studi, è cambiata da così a così. Faccio esempi solo perché c'è gente molto competente che su questo produce rapporti, e secondo me quello è un po' il modo per affrontare la questione. Paolo ci chiama da Piacenza, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar, grazie di avermi chiamato. Un intervento breve di un genitore che segue i propri figli da 23 anni, insomma, e si lascia coinvolgere. Sono stato nominato in un comitato di valutazione. Quindi velocemente due o tre chiarimenti, ecco, tra l'altro per quei 200 milioni di cui parla la legge, io non so a quali istituti sia già stato erogato qualcosa, ma aperta e chiusa la parentesi, il senso della legge ha un valore triennale a creare dei criteri. Ma funziona? Da poi raccogliere a livello regionale, poi a livello statale, da riportare al Ministero nel 2018 per andare poi a chiudere. Ma ci racconti in questo comitato criteri di valutazione? Voi quali avete dato? Ha funzionato? Ha funzionato nel senso che non si è ancora stabilito nulla, però siamo arrivati per il primo anno a determinare dei criteri nel rispetto prima di tutto degli insegnanti, guardando la legge, cioè dicendo un senso di questa legge è stabilire dei criteri che guardino l'innovazione nella scuola. Va bene, no, ma Paolo, questo sì, i criteri che poi verranno riportati al Ministero è tutto chiaro, però sentiamo un attimo ancora Rusconi, perché io avevo una curiosità sull'idea della valutazione dei dirigenti. È vero che i dirigenti che avranno i voti peggiori, diciamolo così per dire brutalmente, rischiano anche il trasferimento, la rimozione? Certo, il licenziamento. Mi faccia fare però due semplici osservazioni. Uno, non vorrei che, come temo, che tutte queste, diciamo così, contestazioni su aspetti, come ha fatto anche Alex, non particolarmente felici della legge, possano portare, come è già successo alla valutazione fatta a suo tempo da Berlinguer, ad una distruzione completa di un sistema di valutazione. Si migliora, ma non si distrugge. Questo è l'obiettivo, mi permetto di dire, di molti sindacati, proprio distruggere la valutazione trovando veramente il pelo nell'uovo. La seconda e quindi arrivare di nuovo alla vecchia diciamo così affermazione: tutti i docenti sono bravi, tutti i dirigenti scolastici sono bravi, poi se i risultati internazionali, compresi quelli dell'Ocse, Ocse Pisa e così via, ci dicono che così con è, noi insomma ci giriamo dall'altra parte, diciamo che è tutta colpa dei tedeschi che sono cattivi e così via. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, mi sembra veramente un paradosso che tutte le, diciamo così, le aporie che vengono riscontrate per queste innovazioni vengano poi soprattutto da una buona parte del corpo dei docenti, che è abituato, lo dico da sempre, ad operare la distinzione, il merito da sempre per tutti i ragazzi. Non è che il docente, allora il docente, che criterio ha il docente di matematica A rispetto al docente di matematica B per stabilire che un ragazzo ha 6, 7, 8, 9, 10? Allora c'è qualche cosa che anche là non va. Allora non possiamo pensare che adesso ci sia l'assoluto, il paradiso, ma attenzione che è l'idea a cui non bisogna dire di no. Certo, perché noi è meglio dobbiamo dire il benaltrismo significa non ci facciamo valutare, questo è. Quindi todos caballeros, se tutto va bene, signora la marchesa, poi se a livello internazionale andiamo male, ripeto, la colpa è dei tedeschi. Ma si fermi qua Rusconi, è tutto chiaro. Ringraziamo lei Mario Rusconi, così come Alex Corlazzoli, e che dire, caro Oscar? Diciamo che il debito pubblico è aumentato di 5.780.000 euro mentre parlavamo. Voglio solo dirvi questo, d'ora in poi ve lo dirò all'inizio e alla fine. Ma non ce ne viene in tasca qualcosa? Paghiamo noi, caro. Per un giorno potremmo chiedere il debito pubblico di quest'ora, va in tasca a noi. Sì, per un giorno potremmo chiedere una cena con che tutti quello di un giorno esce solo dalle tasche dei politici, così si rendono conto della realtà vera rispetto a quella che vi raccontano, cioè che è colpa dei tedeschi. Se viene in tasca a noi, promettiamo una cenetta con tutti voi, ascoltatori. Piccola, aperitivo. Bravo! Va bene, dai, ciao! Come all'inizio di ogni anno scolastico, è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana, purtroppo, sta andando sempre di più verso il baratro. Ben trovato. Ben arrivato. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Insomma, in poche parole, la scuola italiana è una stronzetta generale.